Italia in controluce, la politica nel tunnel. Il 29 di aprile, un saluto a tutti da Daniele Biacchessi. Italia in controluce, così ha chiamato il suo programma oggi, Spari contro la politica. Roma, Palazzo Chigi, le 11.34, una domenica di sole. Al Quirinale è in corso il giuramento del nuovo governo Letta, il frutto dell'accordo tra Partito Democratico, Popolo della Libertà, Scelta Civica. Luigi Preiti arriva nella piazza vestito in giacca e cravatta, d'improvviso apre il fuoco con una pistola calibro 7,65 contro i militari dell'arma dei carabinieri che presidono la sede del governo. Il suo obiettivo, come ha poi confessato, sono generalmente i politici. Agli inquirenti Preiti ha spiegato di aver deciso il suo gesto 20 giorni fa, di aver acquistato la pistola 4 anni fa al mercato nero ad Alessandria. Per il ministro degli interni Alfano si tratta di un gesto isolato, ma il Popolo della Libertà accusa il Movimento 5 Stelle di fomentare violenza contro i politici. Allora vi chiediamo al 349-238-6666 se avvertite un clima di tensione e violenza che può sfociare in fatti come quello di ieri, oppure quello a Palazzo Chigi secondo voi è un fatto isolato. In sostanza, avete paura di fatti come quello di ieri si possano poi ripetere in altre forme? 349-238-6666 e sull'inchiesta relativa a ciò che è accaduto ieri a Palazzo Chigi mi collego con Andrea Viali. Sì, Daniele, buongiorno. Intanto diciamo subito che Luigi Preiti, questo disoccupato di 46 anni, autore di questa sparatoria, si trova a Rebibbia, nel carcere di Rebibbia. Ieri è stato subito arrestato. A Rebibbia ha passato la notte, è in isolamento, è sorvegliato con una telecamera e ha confessato, lo dicevi, che la sua intenzione era proprio quella di uccidere un politico qualsiasi, sembrerebbe. Era arrivato a Roma in treno il giorno prima di questa sparatoria, appunto. Domani sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Secondo gli inquirenti, comunque, non si tratta affatto di uno squilibrato, anzi, quando ha sparato sono convinti che l'uomo fosse nel pieno delle sue capacità mentali, quindi molto probabilmente per lui non chiederanno una perizia psichiatrica. Anche i familiari, gli amici lo descrivono in realtà come una persona apparentemente tranquilla, anche se aveva dei problemi però che non sembrano tali da giustificare quanto successo. Li ricordiamo, 3 anni fa si era separato dalla moglie, aveva perso il lavoro, aveva lasciato la provincia di Alessandria dove viveva e lavorava, dove era emigrato, ed era tornato dai genitori a Rosarno. Tra l'altro stamattina dalla provincia di Alessandria ha parlato proprio l'ex moglie, Ivana Dan, che ha detto che Preiti non era un violento, con lui aveva dei rapporti civili, l'uomo sentiva anche spesso al telefono il figlio di 11 anni, quindi anche lei non riesce a spiegarsi i motivi che sono dietro questo suo gesto folle. Daniele. Grazie Andrea Viali, sono già arrivati i primi messaggi e come temevo sono messaggi di solidarietà con non con i carabinieri e invece con questo Luigi Preiti e come temevo, in quanto c'è un clima veramente molto molto teso nel nostro paese e noi vi abbiamo chiesto se lo avvertite anche voi e se questa violenza può sfociare in fatti come quello di ieri, oppure come dice, come scrive oggi il ministro dell'interno Alfano, si tratta invece di un gesto assolutamente isolato. I vostri sms li potete trovare 349-238-6666. Abbiamo ricevuto già diversi messaggi di solidarietà nei confronti di Preiti e non li leggiamo per scelta. Allora, ci colleghiamo poi con Vincenzo Miglietta, perché dal punto di vista politico tutto questo avviene, questo clima di tensione avviene in un momento complicato, cioè in un momento di transizione nella storia del nostro paese. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Un momento di transizione complicato, dicevi Daniele, ed è così. Oggi palazzi blindati qui al centro storico, mi trovo dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio alle 3, ricordiamo l'intervento di Enrico Letta, intervento che servirà per chiedere la fiducia per il nuovo esecutivo di larghe intese, quindi immaginiamo il clima in cui è piombato il palazzo dopo gli spari di piazza. Colonna, non è un clima semplice, soprattutto dopo la nascita di questo governo di larghe intese. Sappiamo le tensioni che in entrambi gli schieramenti ci sono state e che continuano a esserci dopo l'intesa per questo governo di larghe intese, e questo clima si respira anche qui in Parlamento, soprattutto nei commenti, Daniele, che abbiamo letto sin da ieri su quanto accaduto proprio a Palazzo Chigi. Oggi Berlusconi ricorda: è l'estrema sinistra che gioca con il fuoco, va stigmatizzato chi nell'estrema sinistra ha preso il pretesto del gesto di un uomo disperato per lanciare accuse deliranti alla politica e ai politici, soprattutto dal Popolo della Libertà. Di fatto si punta il dito sul Movimento 5 Stelle, ma anche dal PD, ricordiamo il deputato Gasbarra ha indirettamente coinvolto il Movimento 5 Stelle in questo clima teso e quasi di odio che si è creato intorno al governo di larghe intese. Dal Movimento 5 Stelle sin da ieri Grillo ha detto no alla violenza, i capigruppo Crimi e Lombardi hanno espresso solidarietà all'arma dei carabinieri, la stessa Lombardi ha visitato uno dei due carabinieri, quello ferito più lievemente. Insomma, il clima che si respira qui in Parlamento è veramente teso e dispiace che avvenga alla vigilia dell'avvio del lavoro di un governo chiamato ad affrontare una crisi economica molto importante. Vincenzo, raccontaci invece che cosa dobbiamo aspettarci da qui alle prossime ore. Dunque, Letta si presenta alla Camera dei Deputati oggi alle 3 e poi domani al Senato. Sì, è così, intervento alle 15 di Letta, dovrebbe durare un mezz'ora, un tre quarti d'ora, poi ci sarà una pausa dalle 16 alle 18, alle 18 ampio dibattito sui temi che avrà proposto Enrico Letta, ma non escludo che si andrà inevitabilmente anche a parlare di quanto accaduto qui davanti a Palazzo Chigi, e poi dalle 20 voto di fiducia a Letta e domani stesso iter ma anticipato a livello di orario al Senato, il voto di fiducia è atteso intorno alle 13. Chi resta all'opposizione? Abbiamo visto che nel Partito Democratico è rimasto soltanto Pippo Civati, mentre invece è rientrata un po' la protesta di alcuni parlamentari che hanno firmato un documento a sostegno di Letta. Sì, il Partito Democratico fino alla prova del 9, che sarà poi il voto di fiducia, sembra ricompattato, sarebbe venuta meno la cosiddetta fronda. Ricordavi giustamente, Daniele, l'unico isolato al momento sembrerebbe Civati, quindi un'opposizione ufficiale a questo governo è quella del Movimento 5 Stelle, perché anche la Lega con Maroni ha ribadito: ascolteremo Letta, le sue tesi e poi decideremo cosa fare. Sembrerebbe forse più un sì a questo esecutivo. Bene, grazie Vincenzo, ci sentiamo naturalmente, buon lavoro. Sono molti gli sms e devo dire che però alcuni sono anche abbastanza offensivi per quanto riguarda il ruolo diciamo più generale della politica. Qui il problema è che poi alla fine un signore chiamato Luigi Preiti si è presentato pochi minuti fa, si è presentato nella piazza, la piazza del Parlamento davanti a Montecitorio, Palazzo Chigi, luoghi cioè della politica, tentando di uccidere o sparare un politico qualsiasi che però non c'era, e invece ha trovato dei carabinieri, uno è grave. E quindi noi vi abbiamo chiesto se avvertite questo clima di tensione e di violenza e se siete preoccupati si possa sfociare in fatti come quello di ieri, oppure pensate come dice il ministro dell'Interno Alfano, che quello di ieri sia stato un fatto isolato. Cominciamo con il bollettino medico che vi facciamo risentire, perché le condizioni sono stabili ma grave, gravissime, del carabiniere, di uno dei due carabinieri colpiti. Il paziente è sedato, intubato e ventilato meccanicamente, facilmente risvegliabile. I parametri vitali si sono mantenuti stabili durante tutta la notte. Le condizioni neurologiche non sono valutabili per la sedazione. Nelle prossime ore verrà effettuata una valutazione clinica previa sospensione della sedazione. E ora sentiamo la moglie dell'attentatore che parla di un momento di follia. Non è una persona violenta, non l'è mai stato, non ha mai fatto del male né a me né al bambino né a nessun altro. Negli ultimi anni della sua vita avevamo un rapporto civile, però lui telefonava al bambino, parlava col bambino. Non giustifico quello che ha fatto, sicuramente sbagliato, chiedo scusa alle famiglie delle persone che sono state colpite, mi dispiace tantissimo e sono sicurissima che anche lui ha capito di aver sbagliato, sicuramente non voleva fare quello che ha fatto, molto oralmente in un momento di follia. E i politici cosa dicono sugli spari di ieri? Sentiamo Alessandra Moretti, che era intervenuta questa mattina, 24 mattina, di Alessandro Milan. È evidente che le strumentalizzazioni sono sbagliate, quindi accusare Grillo per l'episodio di Roma è sbagliato, però è anche vero che la politica deve assolutamente moderare i toni e Grillo è stato uno di quelli che negli ultimi mesi ha usato un linguaggio molto violento, ha esasperato effettivamente i cittadini e quindi io penso che anche lui debba farsi una è una questione anche di coscienza per chi evidentemente diventa un punto di riferimento per milioni di persone. Ecco, questa è Alessandra Moretti, dunque un esponente del Partito Democratico. Più in generale sulla situazione politica è intervenuto questa mattina Silvio Berlusconi, sentiamolo. La sparatoria di ieri è stato certo un fatto grave, ma l'ordine pubblico, nonostante la forte crisi economica, non è in pericolo, non lo è stato finora e mi auguro che non lo sia mai. Piuttosto si deve stigmatizzare il comportamento di chi dall'estrema sinistra ha preso come pretesto il gesto di un uomo disperato per lanciare accuse davvero deliranti alla politica e ai politici. Quando si scherza con il fuoco, quando si invitano le persone a dare l'assalto alle istituzioni, quando si incita all'odio, quando si inveisce contro tutto e contro tutti, poi succedono cose come questa. È tutto per oggi, 29 aprile, Italia in controluce, vi ha parlato Daniele Biacchese.